ricordo e ringrazio che siamo qui inaugurando e continuando la co-conduzione coxica del mese con Indici Invest W Opponibili, nella figura anche questa volta di Andrea Montuschi, che è un po' guarito dalla faringite rispetto alla settimana scorsa e che stavolta, per la prima volta come co-conduttore, perché come ospite c'era già stato, è di nuovo in studio. Non scambiamo riniti per faringiti, per favore, perché è un po' come prendere lucciole per lanterne, chiaramente, però niente, sono il nostro super mega coxiche ospite si occupa di medicina? Quasi. Lo fa con cura, la cura c'è. La cura c'è. Questo è importante. Perché è un la cura è un po' anche quella dell'artigiano, il ciappinaro del cinema. Ciappinaro del cinema perché? Tanto diciamo il nome, Valerio Gnesini. Ciao a tutti. Valerio, sono contentissima che tu sia il super mega galattico ospite della 142esima puntata di Coxo Spaziale. Vi spiego perché ciappinaro del cinema? A me piacerebbe sapere perché ciappinaro del cinema. Perché ho iniziato a lavorare prima in scenografia, poi un po' di attrezzismo e adesso mi sono buttato, ho provato una nuova esperienza. Regia. Ma ascolta, regia. Quindi ti piace come definizione ciappinaro? Ma o sì, urta? No, mi piace perché molto. Perché poi nulla vogliamo togliere alle cose bellissime che stai facendo e che ci racconterai un po'. Un bel po'. Super mega po', si può dire super mega po', un bel super mega po'. Mi piace un sacco, okay, mi piace, perfetto. Sempre di più, ma vai lanciato e spedito che ci sta incoxando ancora di più. Poi... Ma sai, è anche la mancanza di questa musica di sottofondo che mi mette di buonissimo umore. Ma quindi, cos'è che stai facendo adesso? Allora, ti parlo dell'ultimo progetto o del primo? Sono due i progetti. Mettiamo un branino. Non ha X neanche questo. Una muxica. Glam Slam X. Sarà fatto. E lo metto e poi entriamo nel vivo, nello specifico di come si ciappina il cinema nel contemporaneo, giusto? Perfetto. Ok. lo sai che con questa canzone io ci ho passato l'adolescenza. Una super mega galattica adolescenza, immagino. Questa nota minore. Allora, bentornati, 142esima puntata di Coxo Spaziale. Abbiamo anche la musica di sottofondo, oltre che il super mega galattico co-conduttore del mese di maggio. Siamo in maggio, sì, sì. E indici in veste W opponibili nella figura di Andrea Montuschi, e un super mega galattico ospite che si è presentato come Ciappinaro del cinema, uno che il cinema lo fa sul pezzo, reale, concreto, e che adesso è Valerio Gnesini. Tanta roba. E che adesso ci racconterà di un paio di progetti che sono in corso al momento e che secondo me sono anche abbastanza esemplari di com'è, delle reti che il cinema contemporaneo nel suo farsi crea. Ok. Mi piace molto questa cosa, che poi tu ci puoi raccontare come nascono i progetti per te, che è una cosa interessante, no? Cioè, perché uno si aspetta nascono da una, non da una casualità, invece a volte magari è casuale. A volte nascono da una casualità, come Transumanza Tour, che è un progetto che è nato nel 2014 grazie alla collaborazione di tre realtà indipendenti, due indipendenti e una un po' più strutturata, che sono Free You di Bologna, Kaleidoscope e Oblò di Genova. Transumanza Tour, Kaleidoscope di Bologna, ricordiamolo. Di Bologna, bene. Esattamente. E praticamente è il progetto, è un road movie dove i protagonisti sono un trio folk che si chiamano Vito e le orchestrine, chitarra, violino e voce, e decidono appunto di attraversare l'Italia, esattamente le sei regioni italiane. Quali sono le sei regioni? Basilicata, mi sbaglio sempre, Basilicata, Toscana, Marche, Emilia-Romagna, Liguria e poi ne manca una. Vabbè, diciamo Lazio a caso, tanto nessuno lo sa. Ma io farei Lazio e Marche. No, le Marche le ho già dette. Forse farei più Puglia, qualcosa, perché me li vedo che no, vanno in tutti Basilicata. I posti belli. No, Marche l'avevi già detto. Basilicata, Marche, Abruzzo, Abruzzo. Eccolo, Abruzzo. Eccolo. C'era la X, vedi, Abruzzo. Liguria e Toscana, è vero. Coxico, cerco di esserlo, lo so. Ma mi spaventi. E quindi girano queste. Praticamente sì, è un. Loro decidono di fare un tour musicale facendo anche i woofer, che non so se sapete cosa sono. Sono i bassi, sono i bassi, sono delle i bassi, casse. Sono no? Le casse. Quando fa. Quindi c'è anche chi fa il sub. E c'è anche chi fa il sub, ma quelli non li vogliamo. Solo nelle regioni di mare. No, dai, non prendetemi in giro. Dimmi cos'è un woofer, così lo diciamo anche a chi ci ascolta. Allora, il woofing è un è un'associazione internazionale che è nata negli anni 70 a Londra. Potremmo definirlo movimento? Movimento, sì, okay. Può essere, forse meglio. Dove permette alle persone di andare a lavorare nelle fattorie di tutto il mondo in cambio di vitto alloggio. Quindi se io voglio provare il lavoro della terra faccio il woofing o il woofer, come si dice? Sì, woofer. Il woofer. Sono un woofer, vado nella fattoria e loro mi fanno lavorare la terra in cambio di vitto alloggio. In cambio di vitto alloggio, ogni fattoria ha la propria anima, ha la propria storia, nel senso che tu puoi andare nella fattoria super strutturata, super toscana con la... Una casa, mi sa che qualcuno c'è stato, Sì, sono stato con la casa in pietra, come ci immaginiamo in qualsiasi film girato in Toscana, e poi puoi andare in Liguria dove ci sono con gli ulivi a pendenza, tanta persino. No, questo invece fuori mi raccontava, perché un po' mi ha raccontato. No, invece no, abbiamo scelto questa fattoria che si trova nella piana d'Albenga, incredibilmente l'unica piana che c'è in Liguria, che però sono riusciti a disastrare con tutta la coltivazione dei vasetti No, ma dimmi una cosa, Valerio. Tu, in quanto operatore, fai anche tu il woofer o semplicemente ti metti lì e riprendi e fai le tue cose? No, alcune volte l'ho fatto anch'io. Meno di loro, però. Meno di loro, okay. Sì. Meno di loro, però abbiamo fatto anche noi, perché sennò non ci davano da mangiare. No, scherzo. No, lo davano. Ma e quindi no, sarò più breve. Praticamente ogni fattoria ha la propria anima. Questa era molto diversa, questa fattoria ligure era molto diversa da quella toscana, perché non avevano il frigo, camminavano scalzi, il figlio si chiamava Bosco, cioè si chiama Bosco, non hanno, usano il telefono un'ora al giorno, adottano il metodo Fukuoka, che è il metodo del non fare. E tutte queste cose sono riportate nella documentazione di questo progetto. Vogliamo ricordare, sì, il nome? Transumanza Tours, è la pagina Facebook. Adesso abbiamo finito la post. Adesso stiamo aspettando. Siete quasi pronti, post-produzione. Come siamo amichevoli, la post. Come la se post-produzione, tutti scusate. Ed è un progetto quindi che va preso 2 anni? Ci ha preso 2 anni, sì, perché per fortuna abbiamo lavorato e poi abbiamo prima... sinceramente era stato pensato per fare, per renderlo seriale. E poi alla fine è diventata una narrazione. Ma quindi sei storie dentro un'unica storia, sei fattorie una diversa dall'altra, e quindi un'apertura su tutto il mondo del woofing, ma delle nuove forme di ruralità, perché poi ci sono non so quante fattorie associate nel mondo, ma tantissime. Quindi trovi dalla prima che abbiamo raccontato, che è un covo di artisti, questo fa una covo sorta di orticello sinergico, ma che in realtà non produce? No, lui lo fa per autosussistenza, ma in realtà è solo una scusa per accogliere le persone. Poi fa tantissime altre attività. Poi c'è quello che fa la musicoterapia nel Trullo in Puglia, che però c'è anche gli ulivi, o fa le marmellate, o... Beh, a me viene voglia di guardarlo adesso. Ti viene voglia di fare il ciappinaro del cinema? Sì, mi viene voglia anche di andare a lavorare la terra, no, per vitto alloggio. E quindi poi non so, ci sono tante altre realtà, l'altra fattoria in Abruzzo, la puntata parlerà appunto di un po' di bioedilizia e un po' di adesso mi viene il nome, di agricoltura sinergica e permacultura. Lui tenta, questo Lost che è il protagonista di questa fattoria, tenta di creare un ecovillaggio. Però insomma, ne sono tutte diverse, sì. Ne avete affrontati tanti di argomenti, sì, bello. Sì, ce ne sono tanti, ma è tutto un mondo che c'era venuta voglia di raccontarla frequentando i mercatini della terra, quindi da quelli più legati a slow food, fighetti in cineteca, da quelli nei centri sociali magari con la Col Diretti o con campi aperti. A me starebbe venendo il domandone, però sì, forse preferisco chiederti prima qual è il secondo progetto che ci volevi portare, ad esempio del tuo lavoro pratico. Perché poi lui ha fatto questo, penso che sia quello il secondo il documentario, sì, quello che è andato alla grande. Sì, il primo è si chiama Varvilla, è un documentario che nato grazie alla collaborazione della Film Commission Emilia Romagna. Abbiamo vinto un bando tramite una casa di produzione, con una casa di produzione bolognese, e parla sostanzialmente di questa piccola comunità dell'Appennino reggiano che, grazie alla tenacia dei propri abitanti, prima costituendo una proloco, poi una cooperativa sociale, sono riusciti a creare la prima cooperativa di comunità. Ok. Dopo c'è stato tutto un movimento mediatico che li ha resi famosi, e il culmine è stato 2 o 3 anni fa, che una delegazione dell'Università di Osaka è venuta a studiarli perché non hanno, questi studiosi non avevano trovato una realtà simile in tutto, cioè, il mondo, in tutto il mondo, che fosse costituita economicamente, perché praticamente loro hanno 4-5 attività che tengono in vita il paesino, ma riescono a tenerle in vita perché le compensano. Cioè, ti faccio un piccolo esempio: se il barrettino del paese che ha quattro cose d'inverno ci vanno in quattro, ovviamente è in perdita. Grazie al caseificio che hanno, fanno più di 60 quintali di pecorino, tra l'altro buonissimo, mantengono questa. Quindi una comunità cooperativa, proprio una comunità cooperativa, abitanti, cooperatori e sussistenza orizzontale. Sono. E questo dove succedeva, dicevi? Succede tuttora a Succiso. Ma hai fatto un assist, non so se l'hai succede fatto a Succiso. Però faceva esperienza. Beh, ecco, questo adesso c'è il domandone, Il domandone. Perché io mi metto in cuffia. Ah no, ci sono, scusa. Il domandone è le realtà di cui si va a parlare sono emblematiche di nuove modalità di ricostruzione del tessuto sociale, se ne parla tanto, nuove modalità per riuscire a sopravvivere rimanendo qui e facendo tesoro della ricchezza e delle esperienze reciproche, in particolare quest'ultimo, ma anche la questione dei woofer. E quindi è una realtà che cambia. Dal punto di vista invece del tuo lavoro, non è cambiato molto alla fine, cambia solo l'oggetto su cui posi gli occhi, il soggetto, l'oggetto. O ci sono o se sostanzialmente nell'arco della tua carriera qualcosa è cambiato in maniera. Posso chiedere un aiuto? Chiediamo l'aiuto a casa. No, l'aiuto. Lo vuoi chiedere a una professionista del settore? Anche perché Ciappinaro, c'è una vera professionista del settore. Ciappinaro del cinema mi sa proprio di mettersi lì con le mani, fare, sistemare, aggiustare le competenze di base che servono per mettere le pezze e poter andare a registrare dove capita, anche in pendenza, in Liguria, anche sì, se sì, in piano. Dai, io dico sempre che poi è la verità, se non fai un gruppo non vai da nessuna parte, nel senso ovvio che magari ti metti in testa dei progetti quando hai il supporto di altre persone e poi magari col tempo, l'esperienza, la fortuna ti però da solo non si fa mai nulla. Forse c'è anche da dire, mi permetto di intervenire su una cosa, che è vero che l'occhio si posa su nuovi oggetti, però abbiamo anche una facilità ritrovata nella tecnologia, nei mezzi per poter produrre. Sicuramente, adesso non so, io non conosco l'iter di produttivo di Varvilla, per esempio, però immagino che lì sia stata anche la possibilità di potersi muovere con una troupe leggera, no? Sì. A questo punto svelo la questione della topica, in caso la riprendiamo dopo. La topica. Il topic, ho sbagliato. Mi piace, non so. Stavo per dire una cosa che non dirò, ma l'hanno pensata tutti. Con il Cox abbiamo inaugurato nel corso dell'anno il capire come nel contemporaneo i vari codici linguistici ed espressivi siano andati cambiando. Mm-hmm. Quindi provavo a indagare anche dal punto di vista del ciappinamento cinematografico. E lo riprendiamo dopo, perché il nostro prontissimo co-conduttore di maggio, Andrea Montuschi, per Indice Opponibile aveva trovato anche la giusta direzione per approfondire oltre e spremere come una spugna il nostro ospite fino all'ultimo. Però adesso abbiamo una cosa super mega galattica che tu ancora dal vivo non hai sentito mai. Cos'è? Questa. Beh, prima ci sono due gingolini che anche quelli non li hai sentiti. Ah, ok. Ascoltando coxo spaziali. Coxo sacrale. Sono Margherita Pepe e sto ascoltando Coxo spaziale. Creatività generica. Coxo spaziale, coxo spaziale, coxo spaziale, coxo spaziale, coxo spaziale, coxo spaziale. Bravissimo! Continua così, sempre di più, sempre di più. Tante X. Comunque, bentornati alla 142esima puntata di Coxo spaziale, che vede un super mega galattico ospite, Valerio, super mega ciappinaro del cinema, e la co-conduzione di Andrea Montuschi per Indici Opponibili, che veste il W per tutto il mese di maggio. E adesso, caro Andrea, mi sta largo il W un po'? Secondo te mi sta largo? Non era per vestire il W, mi piaceva come cosa, scusami. No, ti calza pennello, anzi, sei più coxico dell'originale. Sempre più alto, cosa che no, serve vabbè. In radio. Se neanche più verde. Adesso sai cosa c'è? Sì, c'è la rubrica del coxo. Ah, finalmente! Quella lì! Quella? Sei pronto per il jingle? Sì! L'angolo della menzione. Oh, ma cominci tu o comincio io? Comincia tu. Comincio io, va bene. Allora, venerdì 13, ore 20, ore 20 e basta, per Aspera Preview Party, anticipazioni di arti performative alla Montagnola Bologna. L'evento di anteprima di Per Aspera vede in scena due lavori, Match Point di teatro performativo e io credo si legga Disequal, è un uguale con un trattino dual, quindi Disequal Dual Diversity, però da domani su www.coxospaziale.blogspot.com trovate il testo, il link, capite voi come interpretarlo. Anzi, facciamo meglio, perché questa qui è una seconda, una performance audio visiva di Live Electronics Analog and Visual Processing, e adesso glielo chiediamo al direttore del festival, per forza. Ce l'abbiamo, se non è scappato, Ennio Ruffolo. Sì. Non è scappato, è con noi il direttore artistico di Per Aspera, del Festival Per Aspera. Benvenuto al Coxo. Ciao. Grazie. Ciao. Ciao. Ah, tu sei in piena attività, perché oltre la preview arriva proprio quando la produttività di tutti gli eventi e la programmazione del festival vero e proprio, che questa volta, quest'anno sarà ancora più ricco probabilmente delle precedenti edizioni, è in pieno fermento. Quindi non ti vorrò rubare molto tempo, però ti ringrazio tantissimo per essere qui e per darci qualche anticipazione rispetto a questa serata e per dirci come si legge quel simbolo che è davanti a Dual Diversity. L'ha letto benissimo. Disequal Dual Diversity. Bravo. È una performance. Claudio Vidi ha detto tutto quanto. E la seconda performance, che poi in effetti è la prima, è Match Point di Macello di Pasolini. In pratica alle 20 noi facciamo venire il pubblico in maniera gratuita, diciamolo, che è importante, in questo posto bellissimo che è la Montagnola, che sembra più bello, devo dire. E dalle 20 fino alle 23 circa, no, 22:30, si può stare insieme vedendo questi due lavori, che non sono altro che in effetti prodotti di questa Accademia Invernale che teniamo alla Montagnola, l'Accademia Invernale di Per Aspera. Quest'anno l'Accademia Invernale ha avuto tre particolari cose, tra cui appunto il performativo, l'audio video, e quindi sono nati questi due lavori. Uno è appunto sul teatro performativo e l'altro invece è stato messo insieme da due artisti che hanno curato l'aspetto audio e l'aspetto video, che sono Vincenzo Scorza e Antonietta Di Corato. Alle 20 si parte con il teatro performativo, perché come si sa i performer sono molto più fragili, bisogna quindi farli andare subito in scena. Poi l'audio che ci sia una provocazione. Raccogliamo molto di più, no. Il performer, Poi, no, le parole del direttore sono sagge, vengono da anni e anni di esperienza, quindi ci fidiamo. Beh, e comunque anche tanti, sono giovanissimo, 27 anni. Sì, ma hai cominciato a 6 anni a fare la direzione di Per Aspera, no? Quindi siamo. Ci vediamo perciò venerdì per anche poi goderci questi spettacoli e nella convivialità, chissà che venga fuori qualche anticipazione sulla programmazione del festival. Quello succederà. Vi ricordo soltanto che i lavori sono brevi, perché sono tutti e due da mezz'ora l'uno, e che ci sarà anche la possibilità di stare insieme con un bellissimo bar. Quindi c'è la possibilità puntuali di dal tramonto alla sera e alle 8, mi raccomando. E tanto grazie. Adesso faccio lo stacchetto e ti ringrazio per essere stato con noi. Buon lavoro. Grazie, saluti a tutti per Aspera. Ciao. Un abbraccio. Ciao. Ah, com'è stata la prima menzione? Beh, ottima. Anche con Telefonica, come stai? Queste sono complicate, io non me la sento, hai capito? Cioè, imparerò. Vabbè, poi vuoi quando che avrò ti imparato mi manderai. Jingle per andare sì, con la prossima. Sì, mi carico. L'angolo della menzione. Sabato 14, no, che errore sulla no, coda. Sabato 14 ore 9:30, crescere nell'assurdo. Posso farlo, Tamarro? Crescere nell'assurdo, Esh Bologna, et sala tassinari, è scritto così, Piazza Maggiore 6, Bologna. In che modo l'arte può abitare l'educazione, affiancarsi alla crescita, stimolare l'immaginario mantenendo una funzione critica? Relazioni, dialoghi, disegni, tavole rotonde, interventi video compongono una giornata in forma di convegno, ma con il carattere di evento fluxus. Ho detto bene? Sì. Invitiamo a un appuntamento fluxus spaziale. Invitiamo a un appuntamento pubblico in cui artisti, sociologi, scrittori, critici intervengono sullo sguardo, sull'ascolto, sulla comune condizione dell'essere spettatori. Ingresso gratuito e libero fino a esaurimento posti. Io non lo so, ma voi che siete qua testimoni con le cuffie, ma che voce c'ha Andrea Montoschi? Bravissimo. Che voce c'ha? Vabbè. Domenica 15. No? Questo non c'è, non c'è niente, domenica 15. Domenica 15? Però c'è questo adesso, direi. Sì. Ed eccoci di nuovo ancora lì, alle menzioni. Alle menzioni. Ti rimetto il jingle di nuovo. Alle menzioni. Ah, ma la leggo io questa? La leggi tu, la leggo io. Portato avanti. Ti ho detto che quelle con l'intervento faccio ancora. Va bene, allora vado io. Però allora ce lo metto. L'angolo della menzione. Lunedì 16, ore 17.30, Bologna, Torino, Milano, due punti. La rigenerazione urbana come occasione di innovazione sociale, il modello dei community hub, allo zoo. Ogni città nasconde luoghi meravigliosi ma talvolta abbandonati e da riqualificare. È vero, molto vero. Alcuni di questi luoghi oggi vengono restituiti alla città da gruppi di persone capaci di ricostruire reti di relazioni. Questo è successo a... come lo leggo? Ash Bologna, Ash Milano. E Kilowatt, che è bolognese e che queste cose le fa, ci presenterà alcune delle realtà che sperimentano in queste città questi modelli. Un incontro per dialogare, per conoscere meglio queste pratiche. Fra l'altro c'era anche Ash Torino, eh. Ma adesso non ci sono problemi, perché andiamo un po' a fondo su questa cosa che è estremamente, su questi eventi e pratiche che sono interessanti. Abbiamo un'altra telefonica, la seconda ospite telefonica della nostra puntata è niente po' di meno che Nicoletta di Kilowatt. Ci sei ancora? Eccomi. E ciao, benvenuta al Coxo. Ciao. Grazie, ciao ciao. Quindi il modello dei community hub, dico bene? Che cos'è? Che cos'è? Esatto. Allora, diciamo che noi abbiamo scritto un piccolo documento a più mani tra una serie di realtà che hanno provato a sperimentare sul campo quello che abbiamo provato a definire community hub, ossia un luogo che tendenzialmente viene dalla rigenerazione di uno spazio abbandonato e che però non è soltanto una ristrutturazione edilizia, edilizia, ma è una vera e propria rigenerazione del tessuto sociale urbano, quindi un luogo che fa aggregazione, un luogo che fa cultura. Perché poi, se non sbaglio, hub tradotto è proprio c'entra con la connessione, no? Esatto, vuol dire un centro nevralgico, e infatti per noi, diciamo, la creazione di relazioni è proprio un po' il centro, e noi l'abbiamo fatto a Bologna, alle Serre dei Giardini, e però lunedì ci saranno con noi i ragazzi di Dinamo Scopio di Milano, che hanno fatto un bellissimo progetto che si chiama Mercato Lorenteggio, ci saranno i ragazzi di Avanzi, che hanno appena messo a posto un altro luogo abbandonato molto grande a Milano che hanno chiamato Base, ci saranno i ragazzi di Via Baltea, che è un'altra esperienza di Torino che nasce dalle case di quartiere, e anche lì hanno rimesso a posto un luogo e l'hanno trasformato in un luogo di incontro. Quindi diciamo che l'obiettivo nostro è di raccontare come effettivamente si possa fare rigenerazione urbana, e quindi vorremmo anche, diciamo, chiedere alla politica che lasci più facilmente gli spazi abbandonati e chiusi da tempo a persone che hanno delle idee, che hanno dei progetti per ridonarli alla città. Ma questo è un percorso, è un progetto meraviglioso che meriterebbe un'intera puntata, dico bene, Andrea? A me ci piace molto questa cosa. E magari, chissà, potremmo anche sentirci più avanti, perché visto che dovete scrivere, che scriverete, siete in procinto di pubblicare un documento, ci aggiornate. Magari ve lo raccontiamo. Dai. No, molto volentieri, anche perché poi questo documento vuole essere un documento aperto, quindi sarà un documento dove chiunque può partecipare, scrivere, commentare e darci la propria opinione. Meraviglioso, bravissimi Kilowatt, continuate così e oltre. Grande, oltre, sempre nel futuro. Nicoletta, grazie per aver partecipato, per averci dato qualche elemento in più, e ci vediamo lunedì sicuramente. Vi aspetto, ciao ragazzi. Ciao. Mi è partito. Quindi bisognerebbe hubbare di più. Vado? Sì. Non ho più jingle. Ore 21. Ma che giorno però, che bello che non ho la giornata, sai esattamente. Perché è sempre lunedì. Ah, allora lunedì 16 ore 21, Animazioni 4, cortometraggi italiani contemporanei a cura di Paola Bristot e Andrea Martignoni. Si dice Bristot? Comunque, alla libreria Modo Infoshop. Uno screening dei corti inseriti nel quarto volume di Animazioni, come di consueto curato da Paola Bristot e Andrea Martignoni, e pubblicato da Ottomani e Viva Comics. Questo volume è caratterizzato dalla presenza di diversi cortometraggi italiani prodotti in altri paesi, a dimostrazione che in Italia esistono ottimi artisti, ma che sono, come al solito, mal supportati dal sistema culturale italiano. Qua c'è della polemica, però. Va bene, nota polemica a parte, c'è un sacco da vedere e io... Ma poi le rassegne animazioni che presentano la libreria Modo Infoshop, che è un cofanetto DVD, è proprio godevole, devo dire. Ne ho. Bravo, continua. È vero? Sì. E infine, invece, martedì 17 alle 21, un nuovo incontro con i Martedì in Giallo al Bravo Caffè. Quindi continuano gli appuntamenti dedicati al cantautorato italiano, e nel salotto di Roberta Giallo questa settimana ci saranno Gappa, Cristian Grassilli, Leonardo Buonaterra e Paolo Piermattei. E visto che c'è questo cognome e questo nome che mi è particolarmente caro, io vi ripropongo il mio brano preferito del 2015. Yes! E ti fanno i complimenti, e ti danno consigli finti, c'è chi spera che ti sbagli. Uè, tanto prima o poi ti spogli. Intelligente ma non troppo, e la scemenza che fa colpo. Ci serve un pezzo bello fresco, non puoi essere depresso. Fuliggine, questo è solo fuliggine. Sono fuligine, datti una motivazione per la tua emancipazione, fatti fare un tatuaggio, scarrafone o scarrafaggio, metti pure il parrucchino, ci vuole un look più sbarazzino, delicato ma non troppo, né sfigato né fuori. occhio. Occhio. Foligine, questa è solo foligine. Ah, foligine, resta solo foligine. Ah, hai bisogno di una mano, perché tu non sei nessuno. Io so quello che ci vuole, io maneggio le pistole. Bang, bang, bang, bang, bang. Questa è la sua strada. Mi piange il cuore a sfumare via Fuligine di Roberta Giallo e Paolo Piermattei, che era la sigla di un format concerto spettacolo che ha debuttato lo scorso anno, che è stato anche il mio brano preferito del 2015, evviva. Beh, però il tempo è ormai poco. Tiranno. Sì, tiranno poco, e noi dobbiamo sfruttarlo al massimo, perché come anticipato, per concludere la 142esima puntata di Coxo Spaziale, noi andremo a spremere Valerio fino in fondo nei suoi saperi. Spremiamo Valerio, spremiamo anche la maglietta, non perché debba uscire qualcosa dalla maglietta, ma una maglietta bellissima, che in radio è una cosa importante da dire, no? Che cosa? Che ha una maglia molto bella, che riguarda Transumanza Tour. E che domani potranno vedere sul blog. A questo punto sì, il blog che ricordiamo essere provo.coxospaziale.blogspot.it. Com. Però quasi, com. Io ci ho messo 2 anni e mezzo. No, bravo. Ma poi www possiamo anche non dirlo più, perché anche se scrivi coxospaziale.blogspot.it. Scusa che lo dico, però www viene al ritmo, lo dico a lei che è qui in versione di ospite silente. Secondo me finisce che il Coxo lo farà lui e basta, cioè, ci manda via me a Pasquini e con questa voce, con questa prestanza, si fa spuntare 2x ed è fatta, no? Non penso sarei mai all'altezza e vedo tutte le cose che fai di allergia e mi spaventi molto. Ma questo ormai è una tradizione della nostra amicizia, io ti spavento. Sì, questo è un dato di fatto, e poi mi hai spaventato anche nella versione, diciamo, dell'altra puntata. Ti ho sentito che l'hai detto a Landy Joe. Scusa. No, però non distraiamoci. No, stiamo su Valerio. Non lasciamoci andare troppo fisico al W. Spremiamolo. Vi spiego un po' la storia di questa maglietta. A me piacerebbe. Che se non la trovate, no, che non la trovate più anche sul nostro sito. Sono andate esaurite. Sono andate esaurite perché questa maglietta nasce dal progetto di Transumanza. Uh-huh. Nel senso che Transumanzatura è stato finanziato da un, come si dice, crowdfunding, così? Beh, l'hai già detto, crowdfunding. Perfetto. Basta, lo dici veloce in modo che nessuno possa capire la classico pronuncia. Si capisce funding alla fine. Che abbiamo chiuso abbastanza bene, abbiamo finito con 4.600 euro, che in parte poi risponde anche alla domanda che faceva prima Fede, come cambia la contemporaneità. Per esempio c'è il crowdfunding. Sì. Fanno comunque anche tutte il nuovo modo di girare, nel senso. E qual è il nuovo modo di girare? No, nel senso a livello tecnico, tutte le, non so, la 5D, comunque le telecamere digitali ti permettono di essere molto più leggero e comunque rischiare anche delle avventure senza troppa attrezzatura e senza. In pellicola sarebbe una follia. Sì, no, ma anche comunque. Con la qualità che c'è adesso, sai, comunque puoi anche rischiare di perderti un mese, 2 mesi su un progetto d'estate, no, 2 mesi no, magari un mese d'estate, cioè, d'estate un mese, è fondamentale, magari sono le tue vacanze, esatto, e quindi, cioè, se non hai una produzione che ti supporta, e quindi questo, forse questo quindi è quello. Diciamo che investendo sul personale c'è il caso che magari poi ce la fai a trovare delle sovvenzioni per continuare oltre il lavoro? Sì, diciamo di sì, se ho capito bene la domanda. Beh, però crowdfunding, comunque poter girare in modo più leggero. E poi come tu approdi alla regia? Raccontiamo come approdi alla regia. Dai, sì. È un domandone, la gente sarà. No, è stata, non dico una casualità, ma quasi, nel senso che lavorando sui set molte volte ti viene la voglia di non so, magari raccontare una storia o comunque buttarti in un progetto. E nel 2012 con Valentina Damiani abbiamo scritto questo progetto, che era poi il documentario Barvilla sulla cooperativa Valle dei Cavalieri, e abbiamo partecipato al bando della Film Commission Emilia Romagna, l'abbiamo vinto e adesso è distribuito anche all'estero. Adesso distribuo all'estero, siamo andati ad Amsterdam al Dog for Sale, dove abbiamo trovato un distributore austriaco, un pazzo che ci ha distribuito, e poi ha partecipato a molti festival, tra cui il, non mi ricordo come si chiama, però un festival a Seul. Vabbè, ma a Seul sei scusato, però potremmo dire Coxo Festival, una cosa. Sappiamo di questa. Poi vabbè, in Polonia, siamo andati in Romania, siamo andati, poi abbiamo vinto un premio della giuria al FIFE. A Parigi. Allora si può fare, no? Bisogna avere l'occhio, però, perché lui ce l'aveva. Allora, quindi un piccolo promemoria per una lista di indicazioni per chi volesse provarci. Quindi, innanzitutto, pratica, sperimentarsi sui set, vedere come funziona il lavoro dal vivo e capire e acquisire gli strumenti con l'osservazione. Primo step. Sì. Secondo, la provi? La provi, provo davvero? La provo. Ok. Secondo step, quale può essere? Ma il secondo step, secondo me, è provato a fare dei bandi. No, nel senso che non c'è altra alternativa in Italia. Mi sembra comunque, se non hai dei progetti forti, non lo so. Poi abbiamo degli esperti qua. Vabbè, più esperti, no, però diciamo che buttarsi è una buona idea. In produzione. No, senz'altro buttarsi è sempre la cosa migliore. Ovvio che se stai a casa. Io c'è una cosa che temo da te. Non ti chiama nessuno. Che il sottotesto sia: ho fatto per tanto tempo altre attività sui set, poi mi sono accorto che la gente non è che avesse poi tutte queste cose da dire, non diceva le cose che volevo dire io, allora mi sono messo a dirle io e mi sono accorto che lo so fare bene, perché io l'ho vista così. Cioè, te appena hai detto una cosa, comunque l'hai detta in un certo modo. Io al cinema mi sono emozionato a vedere Barvilla, perché la sua presentazione valeva il film. Ha detto una cosa tipo: saluto i regas della balotta. Com'è che l'hai definita? Mi ricordo micidiale. La balotta, sì. estrema. Erano all'estremità della platea, e poi erano. Non sono persone che frequentano molto spesso i cinema. Che però non è la tipica frase da regista da Dams, certo. No? Saluti i regas della balotta estrema. È stato. E sì. Poi il film era. Che tanta gente che fa il Dams non la tira fuori una roba così, sì, è un bel film, è un bel documentario. Non perdere la polemica contro quelli che fanno il Dams. No, non è una critica al Dams, però è come dire, il regista è una figura che deve avere qualcosa da dire. Certo. Lui ce l'ha, è una bella cosa. Cioè, più tanta esperienza, tanta gente che conosce, anche che penso sia aiutato. Sì. No, senz'altro tutti. Ma alla fine fare cinema è farsi un viaggio tra le persone, tra le realtà, no? È anche questo, volendo, almeno quello che mi viene in mente nelle esperienze che mi hai raccontato, conoscere direttamente, porgere un occhio verso l'altro da te. Sì, cioè almeno io, cioè per come la vedo io, per i miei due progetti. Come dicevo prima, ci vuole sicuramente, ci vogliono le persone giuste che ti supportano, e quindi col tempo magari, cioè che sono appassionate ma anche che credono nel progetto. Poi ci vuole senz'altro anche tante altre cose, nel senso magari avere il fiuto per trovare un buon soggetto o comunque una bella storia. Poi come tutte le cose ci vuole anche il tempo giusto, cioè la fortuna di trovare una storia contemporanea, e poi in quel periodo non è che la conoscessero tutti la cooperativa dei Cavalieri. No, ma poi lì, adesso non cito Barvilla, che magari, però guardatevelo, però molto velocemente tu avevi una storia forte in potenza e poi hai trovato anche un personaggio forte che ha rinforzato la storia forte all'interno del documentario. C'è un personaggio, però hai rischiato, perché poteva mangiarsi tutto, no? No, ma infatti. Quindi ci vuole anche del gran coraggio. Sì, sì. No, ma io quando sono andato. Quando siamo andati le prime volte a conoscere i gestori della cooperativa, i ragazzi che lavorano lì, dopo un po' ci siamo accorti che era un racconto abbastanza. didascali, ma è sterile, cioè non so come dirti, non rischia di diventare uno spot della cosa. Sì, rischia di diventare uno spot. E niente, alla fine io cercavo un po' il personaggio del paese e non me lo volevano presentare perché ovviamente alcuni avevano paura che lui straparlasse, e in effetti l'ha fatto, però è stato in alcuni casi, però è stato quello che secondo me ha dato una svolta. Che bello quando non è tutto scritto, no Fedra? Quando non è tutto scritto succede che vi devo salutare brutalmente. Oddio. La 142esima puntata di Coxo Spaziale finisce a ghigliottina qui. X. Da domani su www.coxospaziale.blogspot.com, anche senza www, trovate tutti i link, ed è stato un piacere e un onore averti come protagonista della 142esima puntata. Adesso ciao a tutti, alla settimana prossima. Ciao. Ciao. Operazione T.